include alle solite scuse di chi si vende il culo praticando cose già diffuse. Ritornare a ciò che cominciò dal giorno zero, di chi ha studiato incastri dai pilastri di questo impero. Io qualcosa l'ho ottenuto, tipi di udibili testi, cresci tra fidgeti con ego trip crescenti, fatti viaggi di LSD potenti che cadi nel vuoto tra inerenti e perdenti. Per certi versi ciò che faccio è una ragione, nei cerchi resta fare i cipher dell'emarginazione. Emargino il margine di una separazione, separo il giusto dalla merda già in espansione. Tu rappi con lirici luridi, anticipi limiti stupidi, stringi dai critici rigidi che ti distruggi, stringe resti limpidi, lisci cannulli, lascia fogliette, scrivici stupidi medici e flussi come nei vecchi cipher. Rispetto per queste squadre, risetto lettere mente alfabeto internazionale, nato nel 98, cresciuto nel digitale, ma non digito, sono analogico come mi pare, ascoltando Black Star e Ready to Die, cresciuto con Black Skate e Freestyle. Rimango sveglio meglio per elaborare incastri vasti, mastichi papiri rimasti ai giganti che in fondo sono dei capi, perché si sbattono rispetto ad altri dimenticati e ripassi tra i passi degli andati. La tua simpatia equivale a quella di Enrico Papi, dacci la forza per continuare, perché se smetto con sta roba non so più che cazzo fare. Sono paranoico quanto voglio Vets, perché la mia arte necessita uno come me. Dalle storie più crude ai testi più potenti, alle solite scuse per i miei fallimenti, nella bravura mi sono illuso, mi scuso se dopo 5 anni non ho ancora un testo di senso compiuto. Nella vita sempre da solo, stai buono, talmente grasso e sfigato che nelle battle mi insulto da solo, compare. Prende male, lascia fare, ho solo il rap perché è l'unica cosa che nella vita so fare. Ho mollato tutto dalla scuola al calcio, ormai è esattamente un anno che non faccio un cazzo. Perfetto, va bene lo stesso, ma non mollo il rap perché è l'unica cosa che ho promesso a me stesso. Ti aspetto sotto al palco per gli insulti, man, sicuro i miei demoni saranno in più di te. Se non m'ascolti tu non mi spezzi, perché ogni debolezza l'ho racchiusa nei singoli testi.